Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 1 della seconda epistola di Pietro, dell'Apostolo Pietro, apostolo della circoncisione, perché Dio aveva operato, Dio operò in lui per renderlo apostolo della circoncisione, a differenza dell'apostolo Paolo, che invece fu costituito dal Signore apostolo dei gentili. Lo stesso Dio operò sia in Pietro che in Paolo, dunque, in maniera diversa naturalmente, però sempre lo stesso Dio. Nella sua grazia operò in questi nostri fratelli affinché mediante la loro predicazione l'Evangelo della grazia arrivasse sia ai giudei che ai gentili. Poiché, dice l'Apostolo Pietro, allora, capitolo 1, dal versetto 16, poiché non è con l'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Poiché gli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce della magnifica gloria. Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, la quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in un luogo scuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima di tutto questo che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari. Poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Dunque qui l'Apostolo Pietro sta dicendo che oltre alla loro testimonianza, vi ricordo che furono testimoni oculari della sua maestà Pietro, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Quindi, perché il Signore aveva preso loro e li aveva portati appunto su un monte alto e fu trasfigurato in loro presenza. Poi sapete che apparvero Elia e Mosè, che parlarono con Gesù. Fu un evento meraviglioso questo che troviamo raccontato da Matteo. Dice, ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, Signore, egli bene che siamo qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia. Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa, li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltate. Dunque, come potete vedere, venne quella voce dalla magnifica gloria, qui dice dalla nuvola, che disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltate. Quella voce era la voce del Padre, che conferma appunto che Gesù Cristo è il figliolo di Dio distinto dal Padre. Quindi Gesù Cristo è Dio, ma lo è anche il Padre. Però sono due persone distinte, diverse. Gesù non è il Padre e il Padre non è il figliolo. Stavo dicendo appunto che oltre a Pietro furono testimoni sia Giacomo e Giovanni, perché c'è scritto sei giorni dopo, questo è il versetto 1 di Matteo capitolo 17, sei giorni dopo Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. Dunque abbiamo la testimonianza di questi apostoli. E Pietro appunto racconta che loro furono testimoni oculari della maestà del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non raccontavano favole artificiosamente composte, che già allora circolavano su Gesù, perché le favole su Gesù, ricordatevi, sono sempre circolate, perché accanto alla verità circola sempre la menzogna su qualcuno, le favole. E su Gesù è avvenuto proprio questo: da un lato c'erano coloro che testimoniavano appunto di quello che avevano visto e udito e quindi dicevano la verità, ma dall'altro c'erano anche quelli che creavano delle favole, vedete come le chiama la scrittura, artificiosamente composte. Allora Pietro ci tiene a dire che non è appunto con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che loro, diciamo, hanno fatto conoscere ai santi la potenza e la venuta del Signore Gesù Cristo, ma perché loro sono stati testimoni oculari della sua maestà. Quindi oculare significa che videro la sua maestà. Pietro racconta quando appunto Gesù ricevette da Dio Padre onore e gloria sul Monte Santo. Quando appunto venne dalla magnifica gloria, quella voce che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E dice: noi stessi udimmo, badate bene, noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Quindi abbiamo la testimonianza degli apostoli, che furono testimoni oculari della sua maestà. Ma attenzione, perché Pietro, proseguendo, dice: abbiamo pure la parola profetica, quindi le scritture. E questa parola profetica viene chiamata una lampada splendente in luogo scuro. Non solo, viene pure definita più ferma, considerate. La parola profetica viene definita più ferma, quindi più ferma della loro testimonianza, alla quale fate bene di prestare attenzione. Ecco, mi piace molto questo che dice Pietro, perché effettivamente facciamo bene a prestare attenzione alle sacre scritture. Perché? Ma perché appunto sono ispirate da Dio. Infatti dice: sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sono scritte dallo Spirito Santo. Ora, voi sapete che il Dio suscitò dei profeti ab antico, e questi profeti, sui quali appunto il Signore pose il suo spirito, parlarono da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Furono unti da Dio con lo Spirito Santo e questi uomini santi parlarono da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Quindi quello che loro dissero non lo dissero di loro volontà, ma per volontà di Dio. Infatti ci tiene Pietro a dire: non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia. Questo è fondamentale. È fondamentale per capire il ministero del profeta. Il profeta non parla di suo, il profeta di Dio. Il profeta di Dio parla da parte di Dio, perché è sospinto dallo Spirito Santo. Ora, il Signore a colui che è stato da lui costituito profeta, gli può parlare con una voce audibile, gli può parlare in sogno, in visione, in diverse maniere. E il profeta ha il dovere di riferire fedelmente quello che Dio gli ha detto, quello che Dio gli ha rivelato. Quindi senza aggiungere alcunché, senza togliere alcunché. Quindi non è della volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinge lo suo santo. Ora, questi profeti che il Dio suscitò, questi santi profeti, che quindi non erano briganti, apro una parentesi, voi sapete che esistono, diciamo nell'ambiente evangelico, coloro che prendono piacere a offendere Dio, a offendere Gesù, a offendere i profeti, gli apostoli, insomma abbiamo di tutto nell'ambiente evangelico, veramente non manca niente, ve lo posso assicurare. Io in tanti anni ho sentito battute, barzellette su Gesù, su Dio, sugli apostoli, sui profeti, c'è veramente di tutto. Non c'è timore di Dio davanti agli occhi di tanti. Ebbene, ci sono quelli che naturalmente riescono a offendere anche i profeti, definendoli briganti. Pensate un po' voi, interpretando in maniera veramente completamente errata alcune parole di Gesù. Considerate un po' voi fin dove si spingono taluni a questo. Comunque la Sacra Scrittura è chiara, i profeti di Dio erano dei santi uomini, erano degli uomini di Dio. Certo, avevano anche loro i loro difetti, come ce li ho io, ma non è che perché avevano dei difetti siamo autorizzati o abbiamo il diritto di definirli briganti e ladri. E questo significa calunniare i santi profeti di Dio, e badate bene che quelli che si permettono di calunniare i profeti di Dio si attirano l'ira di Dio. Io ricordo agli scellerati che offendono i profeti, non solamente chiamandoli ladri e briganti, ma anche in altre maniere, con nomignoli particolari e così via, che Miriam, la sorella di Mosè, per avere mormorato contro Mosè, che era suo fratello, fu colpita da Dio di lebbra, perché Dio è un fuoco consumante, Dio è un vendicatore e non lascia impuniti coloro che offendono, deridono, perseguitano i suoi profeti. E non solo i suoi profeti, ma in generale i suoi ministri, perché i suoi ministri sono stati da lui costituiti per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. E coloro appunto che si mettono contro di loro, ingiuriandoli, perseguitandoli, offendendoli, calunniandoli, si attirano l'ira di Dio proprio in automatico, diciamo tra virgolette. Ma ecco perché i ministri di Dio non pregano Dio di vendicarli, non pregano Dio di punire i loro persecutori, ma assolutamente no, perché è già scritto quello che Dio farà, è già scritto, Dio ha già detto quello che farà, li punirà i persecutori dei profeti, come naturalmente punì i persecutori dei profeti antichi. Ebbene, quindi Pietro ci fa sapere che i profeti non profetizzarono di loro volontà, i profeti di Dio, ma parlarono da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. E tra le cose appunto che i profeti di Dio predissero ci fu la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, o meglio, la venuta del Cristo o Messia, che significa unto. I profeti parlarono appunto del Messia, parlarono del Messia, ne annunciarono la nascita, ne annunciarono l'opera, ne annunciarono la morte espiatoria, ne annunciarono la resurrezione corporale. a dimostrazione che non fu dalla volontà dell'uomo che le loro profezie vennero, c'è il fatto che appunto quelle parole che essi predissero, che dissero perché sospinti dallo Spirito Santo, poi nella pienezza dei tempi si sono adempiute, perché Dio conferma la parola, la parola dei suoi servitori, manda ad effetto le predizioni dei suoi messaggeri, perché essi non parlano di loro, ma parlano in accordo con quello che Dio gli ha detto, cioè riferiscono le parole di Dio. Siccome che Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, ecco che Dio vigilò sulle parole dei suoi santi profeti che concernevano il Cristo per mandarle ad effetto. Quindi, quando noi leggiamo in Primo Corinzi Paolo che afferma Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, sta dicendo che la morte di Cristo è avvenuta affinché si adempissero le scritture profetiche, cioè affinché si adempisse ciò che i profeti avevano scritto. E quando anche dice risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, anche qui sta dicendo che Cristo risuscitò dai morti affinché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti. Quindi sia la morte che la resurrezione del Cristo erano state preannunziate da Dio, che appunto vigilò sulla sua parola per mandarla ad effetto. Ma naturalmente i profeti preannunziarono anche tanti altri eventi, perché dovete considerare che i profeti furono suscitati da Dio per mandarli al suo popolo che aveva abbandonato la sua legge e per esortarli a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie e quindi tornare al Signore da cui appunto essi si erano profondamente allontanati. E allora il messaggio dei profeti era un messaggio, duro, perché appunto in questo messaggio il Dio tramite i suoi profeti preannunziava ai ribelli, ai malvagi, i suoi giudizi, cioè quello che gli sarebbe accaduto se non si fossero ravveduti e convertiti. E siccome che il popolo si fece beffe dei profeti di Dio, li vituperò, li perseguitò, mentendo dissero ogni sorta di male contro i profeti di Dio, siccome che appunto questa fu la reazione del popolo ribelle, poi Dio mandò ad effetto quelle parole dure che aveva appunto detto contro gli ebrei. E infatti Dio li punì duramente. Basta considerare quello che Dio fece tramite Nebucadnezzar, il re dei Caldei, e appunto lo suscitò e lo mandò con il suo esercito contro il regno di Giuda e contro Gerusalemme, per punire il regno di Giuda, per punire la città di Gerusalemme e i suoi abitanti, per l'iniquità a cui appunto si erano abbandonati. Passarono degli anni, certo, passò del tempo prima che quello che i santi profeti di Dio avevano detto si adempisse. Però al momento stabilito da Dio si adempì, vennero calamità, rovina, sciagure sui ribelli, come Dio aveva preannunziato tramite quegli uomini che avevano parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Una delle caratteristiche dei profeti di Dio quindi era quello di esortare i peccatori, i malfattori, quelli che erano dati alla malvagità, a ravvedersi, a convertirsi e a tornare al Signore. Altrimenti Dio li avrebbe colpiti. Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo. E quello che dice appunto Pietro, sempre nella sua seconda epistola, diciamo al capitolo 2, al versetto 1. Lo ripeto, ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo. Sì, proprio così. Ci furono molti falsi profeti fra il popolo che profetizzarono menzogne, usando il nome di Dio. Questi uomini erano degli uomini malvagi. Infatti dice il Signore, avevo ben visto, sto leggendo il capitolo 23 di Geremia, versetto 13, avevo ben visto cose insusse tra i profeti di Samaria, profetizzavano nel nome di Baal e traviavano il mio popolo di Israele, ma fra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, procedono con falsità, fortificano le mani dei malfattori, talché nessuno si converte dalla sua malvagità. Tutti quanti sono per me come Sodoma e gli abitanti di Gerusalemme sono come quei di Gomorra. Perciò così parla l'Eterno degli eserciti riguardo ai profeti, ecco io farò loro mangiare della senza e farò loro bere dell'acqua avvelenata, poiché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese. Quindi vedete, questi uomini che profetizzavano menzogne usando il nome di Dio, commettevano delle nefandezze, commettevano adulteri, procedevano con falsità e fortificavano le mani dei malfattori, e talché nessuno si convertiva dalla sua malvagità. Perché? Perché fortificavano le mani dei malfattori? In che maniera fortificavano le mani dei malfattori i falsi profeti? Lusingando i malfattori. Sì, lusingando. Infatti, dice così sempre il Signore tramite Geremia, dicono del continuo a quelli che mi sprezzano, l'Eterno ha detto avrete pace, e a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore, nessun male vi incoglierà. Perché chi ha assistito al consiglio dell'Eterno, chi ha veduto, chi ha udito la sua parola, chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita? Allora, fratelli nel Signore, una delle caratteristiche dei falsi profeti è proprio quella che lusingano i peccatori. Praticamente li elogiano e li incoraggiano nelle opere inique che essi compiono. Infatti, che cosa gli dicono? Che cosa dicono questi falsi profeti? Perché adesso bisogna parlare dei falsi profeti che ci sono oggi, perché non è che i falsi profeti c'erano allora e poi si sono estinti. No, no, i falsi profeti ci sono ancora oggi, quindi se mi sentite usare il verbo al presente è perché praticamente i falsi profeti di oggi agiscono come agivano i falsi profeti di allora. Allora, che cosa dicono questi falsi profeti a quelli che sprezzano Dio, a quelli che sprezzano i suoi comandamenti, a quelli che prendono i suoi comandamenti e se li gettano dietro le spalle? L'Eterno ha detto avrete pace. Ma com'è possibile che appunto costoro trasmettino un messaggio del genere, a quelli che sprezzano il Dio? Avrete pace. Ma io so che non c'è pace per gli empi. Gli empi non hanno pace e non avranno pace fino a che non si convertiranno. Quindi vedete, questi falsi profeti ingannavano, perché poi sostanzialmente lusingare significa ingannare, sedurre. Ingannavano i malfattori, quelli che sprezzavano Dio, dicendogli avrete pace. Il che non era vero, perché infatti poi, a parte il fatto che non avevano pace in loro, ma poi non ebbero pace perché il Signore gli mandò, suscitò la guerra, praticamente gli mandò un esercito straniero contro un potente esercito straniero che distrusse Gerusalemme, che uccise tante persone, che portò in cattività tante persone. E questa fu la punizione di Dio verso quelli che lo sprezzavano. Vedete? Altro che avrete pace. No. malvagi, malfattori, sappiate che non avrete pace. Non solo non avete pace, ma non avrete pace. Non v'è pace per gli empi. Avete gli incubi. Sì, voi avete gli incubi. Non lo dite, ma io lo so che avete gli incubi. Avete paura della vostra ombra. Quando andate a dormire, la sera, non vedete l'ora che spunti l'alba, perché vi prendono veramente delle paure terrificanti durante la notte, perché siete degli empi, perché l'ira di Dio è su di voi, perché la faccia dell'Eterno è contro di voi. Infatti la vostra coscienza vi riprende del continuo, perché voi fate ciò che è male agli occhi di Dio. E quindi non avrete pace. Ma quale pace? Non v'è pace per gli empi. E voi siete degli empi, vi dovete convertire. Chi vi dice avrete pace? Vi sta ingannando, vi sta aiutando ad andare in perdizione. E siccome che il mio desiderio è che voi peccatori siate salvati, che siate strappati al fuoco, io vi dico non avrete pace, perché l'ira di Dio è sopra di voi. Poi notate questo, che dicevano a tutti quelli che camminavano secondo la caparbietà del loro cuore, quindi non secondo il consiglio di Dio, non secondo i comandamenti di Dio, no, secondo la caparbietà del proprio cuore, nessun male vi incoglierà. Ma voi, camminando secondo la caparbietà del vostro cuore, a voi vi accadranno sciagure di ogni genere, vi cadranno addosso, vi piomberanno addosso giudizi di ogni genere da parte di Dio. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo, lo dovete sapere questo, sì. Non solo si rivelava un tempo, no, l'ira di Dio si rivela tuttora dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E siccome che appunto voi siete empi, ingiusti, voi dovete sapere che appunto andate incontro all'ira di Dio e quindi andate incontro a una tempesta. A una tempesta che Dio farà appunto piombare sulla vostra testa quando voi meno ve l'aspettate. La tempesta scroscia sul capo degli empi, non sul capo dei giusti, no, perché il giusto se ne sta al sicuro come un leone, ma sul capo degli empi, che fuggono senza che alcuno li perseguiti, si guardano alle spalle senza che alcuno li stia inseguendo. Sono fatti così gli empi. E poi non solo, ti vogliono trasmettere a te la paura in cui vivono. Uno di questi empi un giorno, io a quel tempo però non sapevo che fosse un empio, perché lui dissimulava il suo odio verso di me, mi disse: Cicito, stai attento quando esci di casa. Ma io ho detto: ma io sono tranquillo e Dio mi protegge, non ho paura di niente, di nessuno. Me lo disse in una maniera come se mi volesse veramente buttare addosso la paura nella quale lui viveva. Io vivevo nella pace, vivo nella pace, e lui mi voleva mettere paura. Ma io mi scrollai di dosso subito quelle parole malefiche, diaboliche, che venivano veramente dal principe di questo mondo. Lo avvertii subito. Mi sentii turbato. Ma poi anche col tono, con quale tono di voce che me lo disse. Un serpente. Però, allora, quantunque rimasi turbato, non avevo capito che avevo di fronte un nemico travestito da amico. Ma sapete, il Signore, i vostri nemici travestiti da amici, prima o poi ve li fa scoprire tutti quanti, uno alla volta, uno dopo l'altro. Capite? Questi qua vivono nella paura. Ma veramente, quando li conoscete vi accorgete che non hanno pace, che vivono nella paura. E sapete perché? Perché l'ira di Dio è sopra di loro, la faccia di Dio è contro di loro, loro fanno il male e temono che gli avvenga del male. Perché dice all'empio succede quello che teme. All'empio succede quello che teme. Che teme l'empio? Che qualcosa di male gli accada. Ingiusto se ne sta sicuro come un leone invece. Nessun male incoglie al giusto, ma gli empi sono pieni di guai. C'è una canzone che dice, no, che appunto, famosa, voi lo sapete, no? C'è chi vuole una vita piena di guai, no? Ci sono molti che si dicono cristiani, che effettivamente vogliono la vita piena di guai, e poi la ottengono, La ottengono la vita piena di guai, è una vita piena di guai. Ma perché? Perché loro pensano di farsi beffe di Dio, ma tu ti puoi fare beffe di un uomo, ma non di Dio. E Dio ti annienta, ti distrugge, ti fa illudere e poi ti fa piombare veramente, veramente in perdizione ti fa andare. Ma Dio è tremendo. Si mostra astuto col perverso, e tanti sono perversi in ambito evangelico. Si credono furbi, si credono più intelligenti di Dio. E allora a questi qua gli dicono, ma nessun male vi incoglierà. No, io invece vi dico che tanti mali vi incoglieranno, come già naturalmente state vedendo, perché la vostra vita è piena di guai, piena di dolori, che non sono prove. Non sono prove, no, ma nella maniera più assoluta. Voi volete far credere che siano delle prove, che voi siate giusti come Giobbe, timorati di Dio come Giobbe. Ma ascoltate, ma voi siete ribelli come Core, Datan e Abiram, stolti come Nabal, traditori come Giuda Iscariota, amanti del salario di iniquità come Balaam, malvagi come coloro che gridarono crocifiggilo, crocifiggilo. Ecco che cosa voi siete. Ma quale Giobbe è Giobbe? Fanno le vittime. Quando Dio li colpisce, fanno le vittime. Continuate a fare le vittime. Tanto, voglio dire, alla fine, la fine vostra è quella, la perdizione. E dunque, io non lusingo coloro che sprezzano Dio, non lusingo coloro che seguono la caparbietà del loro cuore, come fanno i falsi profeti. Già, perché i falsi profeti, come vi ho detto prima, non è che esistevano solo loro, esistono anche oggi. Si presentano come profeti. Adesso va di moda che appunto loro si presentano come il profeta. E guai a chi non li chiama profeti. Sapete che ci sono pastori che si offendono che se non li chiamate pastore. Pastori, li devi chiamare pastore. Se no si offendono, ti guardano male, ti squalificano, ti mettono nella loro lista nera. Avete capito? A parte il fatto che questi non sono pastori, però vi rendete conto adesso come veramente si sono ridotti questi uomini empi? Mi devi chiamare pastore! Non è che tu lo puoi chiamare col suo nome, nemmeno fratello. Io mi faccio chiamare fratello Giacinto. Io dico una cosa, Giacinto, dipende. Ma ci sono quelli che se tu li chiami per nome, ma veramente ti rimproverano. Come ti permetti, ti dicono? Tu mi devi chiamare pastore. O altrimenti apostolo, o profeta, o evangelista, o dottore. Dipende qual è il ministero che loro si sono, diciamo, attribuiti, perché è chiaro, questi qua non hanno ricevuto alcun ministero. Non mi chiamare per nome, non te lo permetto. E che mai ha fatto quel fratello? E che mai ha fatto? Come se avesse bestemmiato. Ma mi hanno raccontato delle cose nel corso degli anni, fratelli, veramente, che talvolta veramente, cioè uno rimane veramente così allibito proprio davanti a certe cose, perché cioè, queste cose non passano per la testa, no? dei servitori di Dio, però questi qua appunto non sono servitori di Dio e quindi sono servitori, diciamo, di una denominazione, ma queste denominazioni sono chiese di Stato, perciò figuriamoci questi qua, la loro presunzione, la loro arroganza. Appena li vedi già capisci chi sono. Oh, appena li vedi, manco ancora devono parlare che già capisci chi sono. Gonfi, amanti del piacere, vanagloriosi, supermi. Ah, sono terribili. Non bisogna avere niente a che fare con costoro. E quindi, capito, allora i falsi profeti cosa facevano? Lusingavano i peccatori e naturalmente fortificavano le loro mani, no? Perché chiaramente il malfattore si sentiva proprio lusingato, sentendo quelle parole diceva: ma che mi devo convertire? Allora voglio dire, sto seguendo la diritta via, sto facendo il bene. E quindi praticamente fortificavano le mani dei malfattori, i falsi profeti, quello che fanno ancora oggi. E naturalmente, cosa succede? Che quelli che, gli empi che si vedono fortificate le loro mani, poi parlano bene dei falsi profeti. Avete capito? Allora, parlano male dei profeti di Dio, perché quelli sono praticamente, sono dei terroristi, no? Tu sei un terrorista! E perché sei un terrorista? Perché predichi i giudizi di Dio. No, chiamatemi terrorista. Cioè, voglio dire, se uno perché predica i giudizi di Dio si è chiamato terrorista, ma veramente, ma allora anche Gesù era un terrorista? Gesù ha predetto il giudizio di Dio, la vendetta di Dio su Gerusalemme, allora anche Gesù? Allora anche Gesù, il principe della pace, era un terrorista? Così non sia. Ma voi sapete cosa siete? Siete degli empi che non avete alcun discernimento. Voi, essendo che camminate nelle tenebre, non potete capire chi vi ama e invece chi vi odia. Quelli che vi lusingano vi odiano, vi vogliono portare in perdizione assieme a loro. Quelli invece che vi riprendono vi amano, nel senso che cercano il vostro bene per strapparvi al fuoco dove voi siete diretti. Dove voi siete diretti. Allora vi stavo dicendo che i malfattori, gli adulteri, i fornicatori, gli omosessuali, i bugiardi, i ladri, gli avari, i bestemmiatori, gli stregoni, gli idolatri, gli oltraggiatori, gli effeminati, gli ingiusti, insomma, coloro che fanno male agli occhi di Dio, è evidente che nel momento in cui trovano un falso profeta che gli dice: nessun male ti incoglierà, nessun male ti incoglierà, avrai pace, anzi Dio aprirà i suoi tesori dal cielo e riverserà su te tante benedizioni. Così parlano, così gli dico. Basta che dà la decima e subito si aprono i tesori dal cielo per l'empio, e il Signore comincia a benedire l'empio in una maniera veramente tremenda, secondo costoro. Basta che tu gli porti soldi a questi e vedrai le benedizioni divine, le benedizioni celeste, che veramente questi qua cominceranno a predicare, a profetizzare su di te. Ma veramente, guarda, è una cosa impressionante. Io le conosco a memoria le loro false profezie. Quindi vi stavo dicendo che questi qua poi parlano bene, naturalmente, di quelli che li lusingano, capite? Infatti Gesù un giorno, quando disse guai a voi, ecco, tra questi guai a voi c'è anche questo: guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso che i falsi profeti. I padri loro, notate, i padri loro, perché i padri loro erano malvagi ed erano quelli a cui i falsi profeti gli dicevano: nessun male vi incoglierà, avrete pace. Allora, che facevano questi qua, naturalmente, per contra- per contraccambiare, diciamo, le lusinghe, le false profezie, i falsi sogni, le false visioni, le false rivelazioni di questi falsi profeti, che facevano per contraccambiare questo aiuto che gli davano sostanzialmente nel compiere il male, questa forza che gli davano per fare il male, e parlavano bene, i padri loro facevano lo stesso che i falsi profeti, vedete? I ribelli parlavano bene dei falsi profeti. E che cosa avviene oggi? La stessa identica cosa. Allora, i falsi profeti ancora oggi hanno questa caratteristica, appunto, lusingano i malfattori, I malfattori, sentendosi fortificati nella loro opera iniqua, parlano bene dei falsi profeti. Ah, sei un caro fratello, ah, se non ci fossi tu, quante rivelazioni che Dio ti ha dato! C'hai sempre una nuova rivelazione, fratello, non vedo l'ora di sentirti in televisione, in radio. Non vedo l'ora che fai la diretta su Facebook per sentire quello che Dio ti ha rivelato. Ma Dio non gli ha rivelato niente. Queste loro rivelazioni sono solo eresie antiche, o sono lusinghe, sono falsità. Capite? Oggi naturalmente abbiamo modo appunto di verificare quello che ha detto Gesù sui social, no? Sui social. Guardate quanto bene parlano i ribelli di coloro che li lusingano. E invece parlano, dicono ogni sorta di male mentendo contro coloro che appunto non li lusingano. Contro coloro che gli dicono, perché appunto sospinti dallo Spirito Santo, diciamo costretti dall'amore di Cristo, che gli dicono ravvedetevi, convertitevi, santificatevi, altrimenti il Dio vi castigherà. Ah, di questi che cosa dicono? Li vituperano, ripudiano il loro nome come malvagio, li odiano. E poi, mentendo, dicono ogni sorta di male contro di loro. Tu qui, tu là, tu stai distruggendo la Chiesa. Io distruggendo la Chiesa? No, io la Chiesa la edifico, io distruggo semmai i ragionamenti vani, insensati, perfidi, stolti, sbagliati, che si elevano contro la conoscenza di Dio. Quelli li distruggo, ma io non distruggo la Chiesa. Anche perché la Chiesa, prima di tutto, è indistruttibile. Colonna e base della verità. La Chiesa è indistruttibile. E poi io non distruggo assolutamente. Non sono stato costituito per distruggere la Chiesa. Coloro che diciamo guastano il campo di Dio, perché questa è l'espressione giusta, sono altri. Sono quelli appunto che nel campo di Dio ci seminano le false rivelazioni, le false profezie, le false dottrine, le lusinghe di ogni genere, sui malfattori. Ecco, questi guastano il campo di Dio, ma certamente io non guasto il campo di Dio e Dio ne è testimone. Allora, vi stavo appunto dicendo che di questi parlano male i ribelli, di quelli che appunto, cioè praticamente oggi se sei un profeta di Dio devi sapere questo, che appunto non ti devi meravigliare dell'opposizione che ricevi dai ribelli, perché appunto tu essendo profeta parli da parte di Dio, avendo ricevuto questo ministero, e naturalmente ti attiri l'ira, l'odio, il disprezzo di coloro che appunto camminano secondo la caparbietà del loro cuore e che appunto sprezzano il Dio. Però Io ti incoraggio, a te che hai ricevuto questo ministero, ti incoraggio a fortificarti nel Signore, a continuare a elevare la tua voce in favore della verità, perché per certo il Dio poi ti confermerà e ti onorerà come fece con i suoi profeti antichi, come fece con Geremia, Isaia, Ezechiele e così via. Quindi non ti perdere d'animo, sii forte. Naturalmente, appunto, Gesù, vedete, prese come esempio quello che fu fatto ai suoi quello che fu fatto ai profeti di Dio da parte dei ribelli, quando disse: beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per cagion mia, rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Quindi vedete, alla fine la persecuzione che subirono i profeti di Dio anticamente, diciamo, è stata presa, è stata citata da Gesù per dire sostanzialmente che non dobbiamo temere quando veniamo perseguitati a cagione di giustizia, a cagione dell'Evangelo, perché i profeti che parlavano da parte di Dio anticamente furono perseguitati proprio perché parlavano da parte di Dio. Quindi subirono appunto il trattamento che conosciamo, furono oltraggiati, perseguitati, furono diffamati, però alla fine poi Dio li onorò, i suoi profeti, mandando ad effetto, come dicevo prima, la loro parola, perché poi la parola del profeta è la parola. Allora ecco perché ci dobbiamo rallegrare e giubilare, no? Perché il nostro premio è grande nei cieli. Il nostro premio, sì, perché c'è un premio che poi il Signore darà a ciascuno di noi in quel giorno, in base alla nostra fatica. E una cosa è certa, che coloro che ricevono il trattamento da parte dei ribelli, lo stesso trattamento che ricevettero appunto i profeti antichi da parte dei ribelli, devono sapere appunto che il loro premio è grande nei cieli, non è che è un premio piccolo, è un premio grande. Ecco perché ci rallegriamo. Ecco perché ci rallegriamo nel Signore, perché Gesù ce l'ha comandato. Anzi, ci ha detto anche di saltare di letizia. Avete mai visto qualcuno saltare di gioia? Ecco, noi dobbiamo saltare di gioia. Ma perché, fratelli, il Signore è con noi, e anche se, diciamo, passa del tempo, tranquilli, tranquilli, che poi l'ora stabilita da Dio arriva, arriva, e quando arriva, naturalmente, c'è l'onore verso quelli che hanno onorato Dio, ma c'è anche l'avvilimento verso quelli che l'hanno disprezzato. Basta leggere la Sacra Scrittura per capire come il Signore onora quelli che lo onorano e avvilisce quelli che lo disprezzano. Solo che quelli che lo disprezzano si sentono incoraggiati dal fatto che il tempo passa. Vedete, il tempo passa, siamo ancora qui, siamo vivi, e vegeti, continuiamo a fare quello che facevamo anni fa. Un momento, perché il Dio è tremendo, io so che Dio è tremendo, io l'ho visto, il Signore operare in maniera tremenda, contro i malfattori, contro i persecutori dei santi. Quindi è solo una questione di tempo. Di tempo. Ci vuoi mettere paura, Giacinto? No, non sono io che vi metto paura, è Dio che già vi mette paura. Voi avete paura anche se non mi sentite, anche se non mi vedete. Tranquilli, lo so. La paura incombe su di voi e sulla vostra famiglia. Perché? Perché voi siete malvagi. Non vi volete convertire. Non ci posso fare niente. Male vi incoglierà. Altro che nessun male vi incoglierà. Male vi incoglierà. Perché? Perché siete ribelli. Perché non volete convertirvi dalle vostre vie malvagie. Voi pensate che le vostre vie malvagie siano vie sante. Il diavolo vi ha sedotto. e continuate a percorrerle, ma arriva il momento in cui la tempesta scroscerà sul vostro capo, perché così Dio ha stabilito. Non l'ho stabilito io, l'ha stabilito il Dio. Vi siete lanciati contro Dio? Che pensate che vi succederà? Che pensate che vi succederà a voi che lottate contro Dio? Ma cosa pensate che vi succederà se non il male? E Dio ha stabilito così, La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male. Non l'ha detto mica Giacinto questo, No, no. È scritto. E Dio vigila su quello che è scritto per mandarla ad effetto. Mi dispiace per voi, perché so che è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente, ma voi volete così tanto, volete così tanto essere puniti da Dio, capite? Imperterriti, seguite la durezza del vostro cuore, volete proprio essere puniti da Dio, ma che ci posso fare io? Io cerco in tutte le maniere di avvertirvi, però voi l'avvertimento ve lo gettate dietro le spalle, peggio per voi. La scrittura è verità, la scrittura è la parola di Dio. E quindi sorsero anche falsi profeti fra il popolo. E quindi oggi è la stessa situazione. Ci sono anche oggi falsi profeti in mezzo al popolo di Dio. E vi ho descritto appunto il loro modo di parlare. Perché i falsi profeti si riconoscono. Si riconoscono appunto dalle cose false che dicono, perché loro tirano fuori cose malvagie dal loro malvagio tesoro. Poi ricordatevi anche questo, che le predizioni che fanno i falsi profeti sono vane. Loro usano il nome di Dio, lo usano in vano naturalmente, dicendo l'Eterno mi ha detto, l'Eterno ha parlato, ma l'Eterno non gli ha parlato, l'Eterno non ha detto alcunché a loro. Però loro preannunciano eventi futuri che naturalmente non si verificano. Loro sperano che si adempirà quello che loro dicono, ma non si adempie, perché Dio rende vani i presagi degli impostori. La loro parola quindi non si adempie e tu capisci che quello non ha parlato da parte di Dio. Perché? Perché chi parla da parte di Dio invece, tu vedrai la sua parola adempiersi. Quindi hanno anche questa caratteristica che fanno predizioni veramente le più belle, ma le più belle sui ribelli hanno sempre delle predizioni particolari, soprattutto su quelli che gli portano i soldi, la decima e tanti soldi, ma gli fanno delle predizioni, delle profezie che sono veramente meravigliose, che non si adempiono perché quelli sono ribelli, cioè gli promettono praticamente le benedizioni di Dio e poi arrivano le maledizioni di Dio. Ah, poi sapete cosa succede? Che quando arrivano le maledizioni di Dio sui ribelli, sapete come se ne escono i falsi profeti? Ma tu non hai avuto fede. Come non hai avuto fede? Avete capito? Già. Quando arrivano poi i castighi di Dio, non hai avuto fede. No, sei tu, falso profeta, che hai fatto una falsa predizione. Praticamente gli hai predetto la benedizione, quando invece Dio dice che la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio. E invece voi cosa gli proclamate all'Empio? La benedizione in casa sua. Ma come fa a esserci la benedizione di Dio in casa dell'Empio? Quando dice la scrittura che Dio odia, dice tu odi tutti gli operatori di iniquità. Allora voi siete degli ipocriti, dei falsi, dei bugiardi, che illudete le persone. E naturalmente sarete puniti da Dio, voi falsi profeti. È come se sarete puniti da Dio. E quando morirete, ve ne andrete all'inferno, perché i bugiardi vanno all'inferno, non vanno in cielo. Quelli che amano e praticano la menzogna non vanno in cielo, non si trovano bugiardi. I bugiardi ci sono sulla terra e anche nelle denominazioni, peraltro. Però in cielo non ci sono, quindi voi cosa pensate di andare in cielo, voi bugiardi, falsi, calunniatori? No, non andrete in cielo, voi falsi profeti, ve ne andrete all'inferno, nel fuoco. Sì, là sono i vostri predecessori, quelli che vi hanno, che sono venuti prima di voi, sono là, e voi li raggiungerete là, nel fuoco. e poi là smetterete di ridere, di fare le vostre battute, di raccontare le vostre barzellette, contro i religiosi. Eh sì, ci chiamano religiosi, ma io non mi offendo. Non mi offendo per niente. Loro sono i religiosi e quindi che ti puoi aspettare dagli irreligiosi? Ti puoi aspettare solo che ti chiamano religioso, cioè pensando di offenderti? No, no, assolutamente, assolutamente. Loro sono i religiosi. Perciò aspettatevi appunto le parole degli irreligiosi. Allora, vi stavo dicendo, fratelli del Signore, la situazione è questa oggi nella Chiesa. In seno al movimento pentecostale ci sono tanti falsi profeti. E quindi bisogna vigilare, bisogna guardarsi dai falsi profeti, perché poi si presentano vestiti da pecore, da agnelli, ma dentro sono lupi rapaci, sono rapaci, amano il denaro. E infatti fanno anche predizioni per denaro, fanno predizioni per denaro. E che predizioni fanno per denaro? Questi quando vedono i soldi veramente cominciano a fare certe predizioni, ma poi alla fine, ma che gli sarà valso a costoro? Che gli sarà valso? Che gli sarà valso aver usato il nome di Dio per ingannare le persone? Perché poi sono in tanti che gli vanno dietro per ingannare. Cosa gli sarà valso? L'inferno. È terribile, è terribile. Comunque, io sono la tromba, fino a che il Signore veramente mi darà fiato, mi darà il respiro, io suonerò la tromba con l'aiuto che viene da Lui per avvertire la Chiesa, colonna e base della verità, dai falsi profeti. Naturalmente avverto anche dai falsi apostoli, dai falsi pastori, dai falsi evangelisti, dai falsi dottori, che avverto solo dai falsi profeti, però oggi mi sono voluto concentrare appunto sui falsi profeti che esistono, costituiscono un grave pericolo per la Chiesa. Perciò state attenti, fratelli, non vi lasciate ingannare da costoro, non vi lasciate impaurire da costoro, il Dio è con noi, sì, Dio è con noi, e Dio ci sta benedicendo, e Dio ci sta appianando la via davanti a noi, e Dio sta facendo cose grandi e meravigliose. E noi lo lodiamo, lo glorifichiamo, lo celebriamo. State saldi nella fede, perseverate nel timore di Dio, continuate ad attenervi fermamente al bene e ad abborrire il male, secondo che avete l'opportunità fate il bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti, no? come dice l'Apostolo Paolo, così dunque secondo che ne abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quella famiglia dei credenti. E non fate mai il male a nessuno, non cercate mai il male di nessuno, altrimenti il male vi incoglierà, perché come hai fatto così ti sarà fatto. Non rendete mai ad alcuno male per male, ma vi dirò di più, non rendete mai ad alcuno male per bene, mai fratelli, mai, mai. Perché il male non si dipartirà dalla casa di chi rende il male per il bene. E noi questo l'abbiamo visto nel corso degli anni. Proprio il male è là, fermo là. Sappiamo dove è fermo il male. Nella casa di colui che rende il male per il bene. Pensate, c'è gente a cui gli fai tanto bene e ti contraccambiano con tanto male. Ve lo spiegate questo? Si spiega solo in una maniera. Sono empi, sono malvagi. La malvagità viene dai malvagi. Quindi, fratelli nel Signore, comportate questa mia parola d'esortazione per il bene vostro, affinché veramente la benedizione di Dio possa veramente dimorare nelle vostre case e riposare sopra di voi. Che veramente il Signore vi continui a fortificare, che il Signore vi confermi in ogni buona parola, in ogni buona opera, che il Signore vi ricompensi a piene mani per tutto il bene che voi fate per amore dell'Evangelo. E state saldi, il Signore vi renderà saldi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.